Giulio. Qua sono. Ehi, facendo stai? Non ti sento in forma. No, proprio. Oh, sto contando le monete che ho in tasca. 1, 2, 4. Stavo contando l'ottone che ho in tasca. Ma regala la marcetta. Sì, no, questi vanno, sono validi. Questi sono validi. Invalidi sono. Invalidi sono, sono soldi invalidi. Natalino, ci sei? Sì, signore, buonasera. Ciao Natalino. È andato, sì? Sì, ha tutto fatto giù. Tutta la mattina è perso? Sì, io, a fine mattina. Chiamavami, come si va a fare, tia zia Eddi. Lo sai così, quando si va lì, sì, il tempo non conta, il tempo tuo non conta, quello di loro magari già conta, ma il tempo tuo no. Sì, infatti io avevo anche i dolori, mamma mia, guarda, me l'ho vista brutta veramente. Ok. Vabbè, cosa, ti hanno mandato anche quella stanzetta e ti hanno intervistato dopo? Come? Ti hanno mandato poi, dopo le visite, dopo la cosa, il controllo cardiologico, ti hanno mandato anche in una stanza e c'erano i medici che ti intervistavano? Sì, signore, mi hanno fatto tutto. Poi sono andato dall'anestesista, ha detto mi chiamano loro, gli esami andavano bene. Sì, dall'anestesista, infatti, quello lì che ti intervistava. Sì, sì, sì, adesso ti chiamano loro. Qualche giorno poi ti chiamano. Sì, cappa. Andave, così almeno te ne liberi. Sì, infatti, sono, guarda, in una situazione insostenibile. Io lo so, sì. Io lo so come la situazione, ma carità, manca Rigani, manco a Rigani. Sì, infatti, non si augura manco al peggior nemico una cosa così. Oh, nella maniera più assoluta, ci mancherebbe. Purtroppo è così, non è cosa vuoi fare. I mali sono delle persone, e lo sai che è così. Luca, hai un scelta di... Sì, dormi tu. Sto con te. Sta facendo, sperimentando. Cos'è quel macinino che hai appreso, che cos'è? La stampante. Quello? Quel macinino che avevi appreso, cos'era? La stampante. E dove? Un trappolo sembrava, e dove? Nella tua radio, c'era un trappolo, c'era appreso. Ah no, il ricevitorino, è quello piccolino che c'ho l'antenna con la ferrita attaccata. Ho capito. No, pensavo che avevi messo in moto la sera circolare. Rivi. Natalia, te ne metti invece? Una nevata e sento un'immensa. È sempre così, non lo puoi chiamare, no, non lo puoi cambiare nella maniera più assoluta. Manco Vannacci lo chiama. E Vannacci ne ha messo mi sull'attento, sugli attenti gli uomini. Ma nemmeno lui ti mette sull'attenti, vero Luca? Sì. Senti che altro. Ah, quasi tutto, che non si può prendere la sirena tanto. Butta via tutto, ricevitorino, microfono, tutto, butta alla finestra. Dai, dimmi a che ora ce lo butti, però che passo io a quell'ora. Senti, sì. Guarda, ti lascio, guarda. Pacari dai. Sempre meglio. Mamma mia. Vabbè, dai, comunque. Oh, Natali, poni il due, riga che c'ho muga. Allora vedi che non ne posso fare né più né calcio, né rigotto né lana. Sì, e come faccio? A metterlo in riga, come faccio? Non ce l'hai un filo a piombo, almeno quello, non ce l'avrai a metterlo a piombo. sì, adesso me lo faccio con la lenza, così lo buono in mattiombo. Dai, io ce l'ho mi la lenza, casomai, ho messo a piombo io, ho anche la livella, anzi ne ho due livella, per cui lo buono in a piombo, e poi è qua la buono in buio, anche mangio la qua la buono. Cosa hai detto? E andiamo a piccare. Aiuti. Stai a peccare, ma la mangiano, la mangiano. Basta andare al mercato, ma la mattina pesca sicura. Ma non l'hanno disarrato, non mangiano. Stanno rifacendo quello vecchio. No, oh, chiuso là. No, non lo so, non stanno chiuso. No, non credo. E se no andiamo da Eurospin, che già c'è la pescheria da Eurospin. Mangiate pesce, che fa bene. Io non credo che fa bene, ma bene veramente mi. Oh, yeah. No, oggi ho mangiato una fettina di vitella, che ho mangiato. E poi un po' di pennette con i piselli. No, io ho mangiato oggi una bistecca di capocollo che varia un lenzuolo da contare a grano. E poi ho fatto l'insalata, niente, due arance, così, mi sono arrangiato così. E le arance anch'io, quella sempre, quella non manca mai, quella me la ordinata il dottore, dopo pranzo un'arancia sempre, no, sto scherzando, mangiamo sempre lui la frutta tutti i giorni, tutte sa diese, vai Natalia, raccontaci qualcosa di bello. Di bello non vi posso raccontare niente, sono ancora a Durori, va in Lavona. Buonasera Cunha. Ciao Gianni, tu arrivato sei già? Arrivato e sono uscito, ritornato, sono andato lì tutti a accompagnare mio figlio, che è entrato a lavorare in un bar e lo sta accompagnando io. Alle punte, qui alle punte. No. È meglio così. Meglio così, Giorgia. Così almeno si fa qualche soldino anche il ragazzo, io credo. È ora che anche loro incominciano a guadagnare. Sì, aveva già fatto la stagione, Marco. C'ha un bel curriculum perché ha lavorato in un hotel 5 stelle, quindi lo prendono subito, quando va lo prendono subito. Adesso ha trovato questo bacio da settembre, poi a settembre riprende con l'università. Ho capito. No, io ho un nipote che ha fatto l'alberghiero, e lui da quando è uscito dalla scuola non ha perso una giornata di lavoro. O in Sardegna, o fuori, in continente, ha sempre lavorato. È una cosa incredibile questo. Naturalmente a Sassari difficilmente lavora, però lavora molto spesso nella zona di Urbe, con lì, Porto Cervo, eccetera. Poi va durante l'inverno, quando ci sono le cose, no? Il periodo dello sci, eccetera, e va in altura, va e lavora lì anche, sempre in albergo. Lui è un cuoco praticamente. Era giovane, cos'ha? 20 anni, sembra che ha 20, 21 anni, non di più. E io ci abbiamo compare che così va a Sestriere con Maier d'inverno, poi d'estate vari posti di mare, Cosa Smeralda, Stintino, tutti questi posti qua. E adesso si è fermato un po' perché la madre si è preso l'Alzheimer e quindi deve badare la mamma e non può andare. Perché se no le chiamate ce le ha tutti gli anni. Ho capito. Beh certo, ma è giusto che i giovani lavorino. Se ci sono giovani di buona volontà, la maggior parte sono mandroni, la maggior parte dei giovani, però già ci sono anche giovani che hanno buona volontà di lavorare e di guadagnare qualcosa, non solamente per loro, ma alle volte può servire anche per aiutare la famiglia in certe circostanze, certo che sì. Va bene, dai. Luca, invece Luca, vedi, si fa la stampante, fa dei tappi di tutti i tipi, anche tappi di gabinetto. Buono Luca. Di birra. Sono richiesto. Che cosa Gianni, un tappo fatto con la stampante, meno. Lo fa Luca. Ma lo so che Luca è bravo, fa tante cose, a me mi ha fatto il portatelefono. comodo, perché quando canto lo appoggio, mi metto le cuffie, mi sdraio nel divano e leggo, le parole così, capito? Col portatelefono. Capito. No, io ce l'ho il portatelefono e ho anche lo schermo che ingrandisce tutto quello che c'è scritto. È uno schermo grande, saranno 30 centimetri, 30 per 20, una cosa del genere. E dunque tu puoi il telefono e metti lo schermo davanti, no? E questo schermo fa da lente di ingrandimento, grandissimo, le lettere grandissime. Io l'ho visto su internet. Stavo per ordinarmelo, poi ci ho pensato, se non ordino tutte le cose che vedo. Poi, basta, adesso non voglio più nulla, che non sapevo più, non so più dove mettermi nemmeno tutte queste cose che ho. Nah, ho visto troppo. L'altro giorno, il giorno 29, mi mancava, sai cosa mi mancava? Nonostante che ne avevo già tre, mi mancava un trapano, però un trapano a filo, vedete, perché quello che avevo ormai si era rovinato, si era, non andavo più, però avevo e ho sempre il trapano a batteria, poi ho il trapano a colonna e poi ho anche il tessellatore, che anche quello fa da trapano, perché un po' lavorare a battente oppure a giro liscio, per cui, però quello è grande, pesante e dunque mi mancava un trapano a filo, mi mancava. No, l'ho voluto prendere così per il gusto di spendere 80 euro, non per altro. Che poi cosa metto in volta non lo so, non lavoro più, non faccio più niente, per cui, però se mi dovesse servire ce l'ho e basta, non ve la giù, e non ve la va. Avanti di Natali. Io ne ho due, uno che fa percussione, trapano normale a due velocità, che è della Black & Decker, e poi ne ho un altro che ho comprato da MD, da LD forse, LD. Batterie, e fa da avvitatore e da trapano. Anch'io ce l'ho avvitatore a batteria, con due batterie, quello che ha poi doppia velocità, lenta e veloce. Oppure questo invece che ho preso adesso è un Makita, è un trapano di lusso, di marca veramente. Anche questo fa da battente lo stesso, dunque posso anche tassellare con quello, eccetera. E poi anche in versione di rotazione, può girare sia da una parte che dall'altra, no? Non c'è problema. Ma comunque, non sapevo come spendere 80 euro, sono andato a Bricone, l'ho visto, guarda nel telefonino, Makita 1631, è un bel trapano veramente. E ora ce lo carica il telefono, ce lo cucina. Sì, ma ci credo, perché avevo preso un caricabatterie, l'ho pagato un po' di più, però era forte. Sì, certo che sì, e vabbè, poi ripeto, ho il tassellatore, quello tassellatore buco, il cemento armato come se bucasse burro, una cosa incredibile, naturalmente con l'attacco SDS o come si chiama, però ho comprato anche il mandrino da parte, dunque posso inserire anche il mandrino e utilizzarlo come trapano normale, con le punte normali qualsiasi, no, non c'è problema. Ma quello ha una forza, l'avevo usato anche per impastare il cemento, quello lì l'avevo usato, ho messo il frullino, l'avevo messo e l'ho usato anche per impastare il cemento. Un bidone di cemento dove impasta in pochi secondi. Lo so. Sì, sono utili, dai. Sono utili. Io quel trapano della Black & Decker ce l'ho da quando era a casa di mamma. Immaginati tu da quando ce l'ho. Non si è mai bruciato. No, se è quella della versione professionale, Black & Decker, la gente dice Black & Decker non serve. Ma cosa dici che non serve? Io l'ho usato per anni, quella versione professionale però, per anni in falegnameria mettevo certi viti 18 cm lunghe. Ti puoi immaginare, quando facevo le porte, i telai di sopra, no? La parte della parte architrave del telaio, quello li facevo avvitate, come li fanno tutti quanti. E ci mettevo viti anche lunghe 18 cm, soprattutto quando facciamo i portoni. Il portone è un telaio robusto, pesante, che ci vuole. E mettevo viti da 18 cm, ma sai come le abitava? Caspita, una meraviglia, veramente. Io non lo so se il mio è professionale, però te l'ho detto quello che fa. Trappano a percussione di due velocità e trappano normale, quello lì. Poi c'è un altro che fa da avvizzatore, da trappano, che più a livello di olio, va più bene come avvizzatore che come trappano, perché se deve fare qualcosa di sforzo come tracchite, roba del genere, lo la fai. Ripeti così. Sì, ma il segreto del trappano è quello, basta avere il trappano che abbia 700 watt, 710 watt di potenza, e che poi abbia l'ingranaggio che sia in metallo, perché ci sono dei trappani che hanno l'ingranaggio di coso, di plastica. Una volta ne avevo preso sempre da Bricom, che poi non era Bricom, allora era Media World, come si dice, non Media World, Ocean, dai, prima com'era che si chiamava? Città Mercato, ne avevo preso uno lì, di trappano, ho bucato un marmo, non ho fatto in tempo a finire che si è sciolto, perché aveva lì l'ingranaggio di plastica, ha scaldato e si è deformato tutto l'ingranaggio, e si è subito lampato, guarda che facevi, ma mi serviva per usare tutto, per la poltronite, di non andare in bottega a prendere il trappano come si deve, perché stavo lavorando proprio qua di punta, ma dov'è? Anzi che salire, vado lì, compare giù il trappano un attimo, già servire sempre, sono andato a bucare un marmo per mettere la chiusura della persiana, capita, e mi si è sciolto il trappano. Avrei fatto più bella figura se sarei andato in bottega a prendermi il trappano come si deve, e non me l'avevo portato appresso, capito? Anche io, guarda, quando ho iniziato a lavorare, i primi lavoretti che ho fatto erano dei palchi delle ville con questo falegname, e mettevamo i palchi delle ville, che abbiamo preso il trappano, questa villa c'aveva come si chiama? Cemento armato, cazzo. Se bruciato lo drappa, non esci dello fumo. Sì, perché se non ha l'ingranaggio di metallo, come scalda il trappano si deforma subito l'ingranaggio, che è quello che trascina appunto la punta, la merce per bucare, è ovvio. E allora, ripeto, se vuoi tu andare sul sicuro, un trappano professionale 700 watt, 710 per l'esattezza, dai, e con l'ingranaggio di metallo si è a posto. Poi ci sono anche dei bellissimi trappani anche a 500 watt, leggeri e molto robusti lo stesso, ma devi prendere un trappano sempre di marca, che so io, un iGain, un Fedisati, un Bosch, un Makita, un DeWalt, questi trappani così, perché se prendi i trappani di quelli sottomarchi, quelli non servono, ma se li prendi da 710 watt può essere anche una sottomarca e funzionano benissimo ugualmente. Interessante che abbiano l'ingranaggio in metallo. Quello che ho io c'ha anche il manico per prenderlo davanti, c'è proprio la maneccia, dai, per afferrarlo davanti, per non scappare. È bello grande il mio, non è il trappano di cavolo, ce l'ho tanti anni, ti sto dicendo che è la casa di mamma ancora. Non mi ricordo manco se l'ho fidanzato ancora quando me l'ho comprato. Sì, beh certo, c'è il manico per sostenere, perché se quando il trappano è abbattente ti danno anche quello, ti danno, perché secondo cosa stai bucando ti fa girare il polso, ti fa girare. E dunque ci vuole il manico per sostenerlo, è ovvio. Quando metti un tassello che stai bucando una cosa pericolosa, tipo ferro, tanto per fare un esempio, non si sa mai. Oppure un calcestruzzo che trovi il ferro dentro, ti blocca e ti gira il polso e ti fa male. E invece se lo mantieni non ti succede niente, tranquillamente. Avanti Luca! Ma oggi ci sono quelli con la frizione, quelli a coso. Aspetta, vanno una puzza che si buro. Il mio c'ha le marce, la prima, la seconda, la terza e la quarta. E il mio è una sedia, l'abitatore è una sedia di marce, 16 marce ha. Ma quello per l'abitatore è legno, perché se tu stai abitando una vite, secondo la velocità e la forza che metti, quando si è alla fine c'entra anche la testa della vite, e allora ti devi regolare per poter mettere la vite a filo di legno, no? Beh, Luca, l'ultimamente in mano, dove andenni? Ah, io da un bel che non uso quelli a filo, ormai c'ho il coso della Parkside, il tassellatore della Parkside a batteria, la moletta a batteria, l'avvitatore a batteria, già so una di senza trattare di trappani a filo, c'è gli uomini, ma no, c'è anche il tassellatore, quelle Bosch grossi, proprio tassellatore, SDS, ma da quando c'è questa batteria, chi ne usa più a filo? Lo so, anch'io sempre quello, però secondo cosa buchi ci vuole quella a filo, perché se ti vuole fare una serie di tasselli, con quello ci vuole il tassellatore elettrico, se no la batteria te la butta giù in pochi minuti, e poi cosa deve fare? Deve stare sempre sostituendo la batteria. Tu mi dirai, ma tanto batterie ne posso avere due, ne puoi avere anche tre, ma deve stare sempre cambiando. E poi a filo elettrico è un'altra forza. Ah, un'altra forza, non ci sono dubbi. Vai già. Sono d'accordo con te, anch'io la penso così. Poi le batterie prima o poi ti partono, magari non la trovi, è un casino. Ma guarda chi monta in fissi, chi fa stettoie, queste aziende qua, mica andano a domandare la corrente, ormai tutta batteria, hanno i macchita, hanno roba professionale, c'hanno i caricabatterie, sì, appresso, però ormai con le batterie di oggi, guarda che ti vado in tettoie, ti piazzano in fissi, cosa cazzo ne chi va a domandare prolunghe, corrente, quante si faceva prima. Certo che sì, anch'io quando andavo fuori a piazzare, magari mi piazzavo 8-10 porte in una giornata, tutto a batteria, è ovvio, però eri in un appartamento, se per caso ti mancava la batteria, tanto ce l'avevi doppia e ce l'avevi sempre sotto carica, una volta che era caricata una, c'era pronta l'altra, però quando ce l'hai a filo è tutta un'altra musica, lascia perdere. Un'altra musica, se devi abitare ad esempio in legno duro, come può essere il faggio, e tanti altri tipi di loco, eccetera, viti lunghe, la batteria, quindi vuoi dire la batteria, metti a elettrico, la vedi come entra la vite, a Maragana. La batteria piano piano se ne scende, invece con l'elettrico è continuo. E certo che sì, lo credo. Appunto, sto dicendo, perché avviti il legno dolce tutto va bene, non c'è problema, ma se devi abitare in legni duri, come può essere il faggio, come può essere l'irocco e tanti altri legni, avviti quattro viti e se ne è già accesa la batteria, e tante volte non ce la fa nemmeno arrivare più nel fondo, perché purtroppo è così. Sto parlando naturalmente usando viti lunghe, poi usi vitine, cosa vuoi che sia, vitina entra subito, ma se usi viti lunghe come usavo io ad esempio quando facevo i portoni, viti da 18 cm, se non ce l'hai elettrico già arrivi domani a fondo, è molto necessario accendere la batteria. Allora, ogni tanto su Facebook così fanno vedere, no, le gare con questi mini avvitatori a tipo Makita e un'altra marca, convinti da 25 centimetri, entrando nella lamellare, e fanno le gare, no, a chi è la vita prima. Ma sono una cosa incredibile la forza che hanno. Ma Makita è Makita o Luca? Makita è un trappolo, io ho tutti gli strumenti, trappolo o Makita, il carro armato Makita, pulitrice Makita, tutto Makita va giù, Makita è Makita, è una delle migliori marche in assoluto, anche se oggi non lo so se stanno ancora costruendo, perché ad esempio Palmieri, utensili, Makita non ne vende più, lui ha cambiato, cioè vende DeWalt, vende quelli gialli eccetera, no? E ma sono degli strumenti bellissimi e fortissimi anche quelli, però prima aveva Makita, io ho tutto il tassellatore Makita, tutto Makita maglio io. Makita è come la betta delle chiavi, appunto, sì, che si può immaginare, sono macchine come si deve, non sono giocattoli, sono macchine professionali veramente. Certo non è come Parkside, no. Sì, funzionano, perché non si può dire che non funzionano, però non è certamente avvicinabile ad una marca che ti ho menzionato poco fa, tutte quelle marche buone, ad esempio come Felizati, il Bosch, anche Bosch sono ottime marche, iGain, soprattutto iGain, capita, ma che la vede, costano, perché costano un sacco di soldi. Sono utensili veramente buoni, poi c'è l'antenna anche. La vita. È che il quinto. Uno ha comprato su Facebook, sai quelle pubblicità che fatemi vedere, no? L'hai fatto vedere, c'è troppo la marchita Buemba, l'arrivi a casa e mi ha scritto Macotta. Molto tempo. Vabbè, noi quando ero di stabilimento che lavoravo con lo sotto principale, c'era uno che lo chiamavamo Margiotta, e dice passami Margiotta, un ragazzo, un giovanotto era, portami Margiotta, perché dice Macchita, no? perché lui l'avevamo messo, il soprannome Margiotta l'avevamo messo, e allora lo chiamavamo così. E lui si avvicinava, che cosa c'è? Vediamo un po' se parla Natalino. Natali! Se le papi di Malgioglio già entra. No, mi sento male, dai, vi ascolto, però non ho voglia di parlare. Ah, così è, vabbè, dai, ma non ci pensare, dai, due chiacchiere puoi fare lo stesso. Piano piano, dai, magari se ti chiamiamo ogni quarto d'ora, bene va, così non ti affatichi troppo. Bene va Gianni. Ma io già lo capisco, perché anche io ho avuto i dolori, insomma, ho avuto. Se la notte non dormivo, da gridare, i dolori da gridare, i dolori al femore sono, forse sono dei peggiori che ci sono. Dillo a me già, che non ne ho passato, dillo a me, oh yeah. Vabbè, comunque è stata inutile lamentarsi, perché il discorso è sempre quello. È chiaro, uno si lamenta, quello sì, però devi anche cercare di reagire, no? Perché se no ti abbatti come così e sembri un pappagallo. Vero Luca? Ma c'è andato a Casablanca. E cosa vai a Casablanca? A che devi incontrare? Ti fate nuovo nuovo. Ah, capita, lo so qui io. Oh, yeah. Vabbè, comunque. Natali, ti scende lo sonno, lo so che ti senti male, però ogni tanto, almeno se non altro, facci sentire che stai respirando bene bene. Una gana, quando uno non è a buglia, il problema è sempre quello. Il problema è sempre quello, che i dolori lì, ma perché devono venire i dolori alle persone? Non lo so io. Io a volte mi alzo la mattina che sono tutto un dolore, le dita dei piedi, delle mani, le braccia, le scapole, la schiena, tutto un altro duro. Ma quello può essere mancanza di circolazione durante la notte, non ti muovi, mentre vesti dopo che ti alzi ti passa tutto, così è. E dopo che ti alzi non è che ti passa, ma un po' si allivia, dai. Ma molte volte sono soggetto a prendere degli antidolorifici, perché a volte non ci riesco a resistere al dolore, specialmente alle dita delle mani. No, ma non è questione di circolazione, è questione di ossatura, di ossa. Secondo me sono artrosi, che cacchio adesso? Artriti, so. Artriti magari no, ma si chiede un marturi, se pensate. Anche quello può essere. Perché io ho sempre detto, sarebbe bello avere sempre 20 anni, a uno 20 anni non ha mai niente, sarebbe sempre proprio bellissimo avere sempre 20 anni, magari passare tutti gli anni, anche 100 anni eccetera, però avere sempre le forze dei 20 anni, capito ragazzo, lei ci avete, a certi giovanotti di oggi, mia, c'ha furuna, lo sai, vero Luca, a 100 anni avere la forza dei 20 anni, che vedo, Ma cosa ne fai di 100 anni? Cosa ne fai? Non ne vuoi tu, se non ne vuoi la carità, cosa ti faccio lo sconto? Se vuoi ti faccio lo sconto, ma fatelo tu già nello sconto, vai. Poi, noi che siamo diabetici non ci arriviamo a quell'età. Il diabetico è soggetto all'infarto, a queste cose qua, quindi si può immaginare, io mi tocco però. Purtroppo sì, purtroppo lo sappiamo, che prima o poi arriva, altro che se arriva, altro che, eppure, però è inutile andare lì a pensare, cioè, se ci pensi ancora, arriva prima già. La paura stessa, noi, vabbè, da poco alle abbottiglie è morta una donna che conoscevo per 66 anni, che la vedevo quasi tutti i giorni, che passava qui, di punto in bianco, nel giro di un paio di mesi è morta. L'hanno portata in ospedale, non gli hanno fatto niente, perché dice, cosa mi fai? Ha tutto bloccato, tutti gli organi, tutti bloccati. Infatti nel giro di pochi giorni che l'hanno ricoverata è morta. Poi mio cognato praticamente ha telefonato una figlia, ed era giovane mio cognato, ha telefonato la figlia e gli ha detto, ascolti da me, non è che c'è un telefono di ricambio, perché mi si è rotto il telefono e sono senza telefono, e gli ha detto, vabbè te lo porto a casa, ma non c'è problema, te lo sto passando, già ce l'ho. È andata a casa sua, ha suonato il campanello e lo rispondeva, lì c'aveva le chiavi di casa, ha aperto e l'ha trovato col televisore acceso, stecchito sul divano. Sì, ebbene sì, se ne sono sentiti tanti di questo, che hanno subito una morte del genere, purtroppo sì. Purtroppo la vita umana è una lotteria, via, una lotteria, c'è quello che è la lotteria, è più fortunato e dura più a lungo, c'è quello invece che è meno fortunato e muore prima, negli anni, magari anche negli anni migliori della vita. E cosa ci vuoi fare? Pazienza, vabbè. Luca, tu che contratto hai fatto con la vita? Sta gente con questi vaccini, c'è una cosa, come ti dici? Siamo purtroppo messi così, Giulio. Oggi ci sei, domani ti saluto. Lo sappiamo, appunto è quello che stavo dicendo io anche. Purtroppo è così, è cosa vuoi fare, però finché c'è vita c'è speranza, finché c'è vita, finché respiriamo va sempre bene, finché ci sentiamo al baracchino va ugualmente bene, non c'è problema. Il guaio quando non ci sentiamo più, allora vuol dire che c'è stato qualche problema serio, vero già? Parliamo di cose belle, e queste sono cose brutte, meglio non pensarci. Io mi ritengo già fortunato perché diciamo 64 anni li ho già vissuti e c'è gente che è morta giovane, per cui già la fortuna di aver vissuto sino a 64 anni ce l'ho avuto. Indubbiamente non è una grandissima età, comunque diciamo che è un discreto tempo che ti sei vissuto, perché no? Certo, io ti auguro che tu ne possa vivere altrettanti, sempre in buonissima salute, e che non so mai cosa può succedere nella vita già, non è detto, guarda, c'è gente che è morta a 118 anni, c'è gente in Sardegna che ne ha 110, per cui finché c'è vita c'è speranza, quando non c'è più speranza vuol dire che non ci siamo più, pazienza. Avanti Luca, e lascia stare i vaccini dove sono, se no quello che il pubblicista si denuncia. Ma se chi su Pfizer avevamo fatto tutti, chi su Pfizer? Io ne ho fatto, dunque, Pfizer ne ho fatto due, l'altro era, l'altro vaccino dopo il Pfizer. AstraZeneca? No, non è quella, no. L'altro ancora, ce n'erano tre, ce n'erano. L'altro ancora, non me lo ricordo com'era. Comunque il Pfizer faceva venire trombosi, un po' di roba. Ed è quello che hanno fatto tutti, perché è stato il primo vaccino che l'hanno fatto tutti obbligatoriamente, era quello, non ce n'era altro. E quanti giovani stanno morendo? In effetti sì. può essere anche quella la causa così di una morte prematura. Certo, può essere anche quello il fatto del vaccino, e non solo la morte, ma tante altre cose, come c'è successo pure a me, per dire, no? E vabbè, cosa ci vuoi fare della vita? Ci vuole fortuna, non c'è niente da dire e non c'è niente da fare, quando arriva il momento, arrivi e buh. Cioè, non deve morire, non muore, ma se si ammala. Cioè, magari quello che è malato vive di più di quello che è sano, che c'è un incidente e crepa subito. Non è detto il fatto di essere malati e cose. Tante volte vive più quello malato di quello sano. Sì, guarda, io mi ricordo, non mi dimenticherò mai, nel negozio di generi alimentari che c'era a fianco alla mia bottega, signora Dina, già l'avrai conosciuta anche tu, c'era il marito che tutti i sabati immancabilmente andava a Itri, perché quell'uomo aveva dei parenti a Itri, e c'era il fratello che era malato, e quest'uomo è stato malato per anni, tutte le volte che veniva mi diceva, mio fratello sta morendo, beh Gianni tu non ci crederai, e lui era sano, e improvvisamente lo sai che è morto prima lui che il fratello, che era anni malato. Quello che ti sto dicendo io, tante volte non sono calcoli da fare, perché basta un attimo, basta di arrivare anche cosa in campo, basta e visto adesso, terremoto anche oggi a Napoli, ho visto, tutti gridando, mamma mia, mi ha fatto l'impressione vedere questa gente così. Purtroppo sì. Quello che mi dà più fastidio quando uno muore sul lavoro, quello, le cose che mi danno più fastidio sono quelle. Anche ieri ne è morto uno sul lavoro, ma comunque sono incidenti che purtroppo alle volte non lo so. Va bene, dai, avanti lui. 63 anni aveva, mi sembra che mancava un paio d'anni andare in pensione. Bubu. Sì, 63 anni, era vicino alla pensione, non ho fatto in tempo ad arrivarci, sì, è vero. Era buco comunque. E ora vuoi va. Comunque te la vuoi prendere? Col destino che purtroppo alle volte è crudele, anzi più delle volte è crudele. Vabbè, pazienza, dai. Cosa facciamo? Stanotte cosa ci mangiamo? Una pizza? Bene, va a mangiarci una pizza stanotte. Mi sa proprio che mi ha dato una buona idea. E non sarebbe una cattiva idea, no? Non è una cattiva idea. Noi di solito la mangiamo sabato, la mangiamo, però non è detto che oggi non possa essere anticipata oggi, perché no? Oggi è venerdì, per cui va bene lo stesso. Mentre invece mi Luca del Baderì, come si chiama quella panada? Com'è quella pare che fai tu, Luca, tipo pizza, come te li chiamano? Le piadine. Piadina. Anche quelle devono essere buone lo stesso, certo che sì. Ma Luca lo sa fare la pinza, quella che fanno a Roma. La pinza romana, sì, che USA fa essa. In ogni posto che vai, vedi, hanno le loro cose, come la piadina non viene se mai via, ma lo lasciamo perdere, va, la piadina romagnola. Perché dove è nata la piadina? A Napoli è nata. No, Roma. La piadina è di Bologna. Di Bologna, capita, andava. È la città dei ghigli, vero? Così dicono, vero? Ah, boh, a Gianni lo devi chiedere. Città! Ho capito cos'è, la città dei ghigli. E parlo molte pride, molte lesbiche, gay, con le manifestazioni, quello è bello. Perché mia figlia me le manda quando fa i filmati a volte, quando li vede passare, me li manda. Infatti ne sono dei pochi incidenti. E su si inoppigliano dai poliziotti. Diciamo che Bologna è rossa come colore di partito, e fanno molte manifestazioni e cose, capito? Giulio c'è stato per tanti anni. E Giulio mi piacerebbe andare a Bologna. Comunque è una bella città, è veramente una bella città, non si può dire dire di no, ma veramente tutta la parte alta del nord, tutta belle sono le città, soprattutto Firenze, poi vedi se non le va a vedere qui, trova lo stesso, è bellissima, forse la più bella di tutti, però è trattata male, soprattutto dai romani, perché non la rispettano la città, tutta piena di bingo, tutta piena di cose, non è possibile. Bologna è tutta in pianura, vanno tutti in bicicletta, anche mia figlia si è comprata la bicicletta e va a lavorare in bicicletta. Non fa a prendersi la macchina, ha detto, perché alle 8 di mattina devi andare a spostarla, perché se no ti mettono la busta, un casino. Comunque oggi alla Budibudi c'era la pulizia con la macchina dentro, la macchinetta per la velocità, dentro la Jeep ce l'avevano. E non è da stradale, è della pulizia normale. Io sono passato a 52. Speriamo che non ti facciano la multa, perché una volta io andando prima di entrare a Porto Torres c'era proprio la cosa, la telecamera che mi aveva ripreso e poi mi avevano mandato la multa a casa, mi avevano mandato e stavo camminando a 56 km d'ora, stavo camminando. E stavo andando alla SIR, stavo andando alla petrochimica di allora, no? Perché dovevo comprare un controsoffitto, cioè quei pannelli in polistirolo che si mettono nel controsoffitto, perché avevo fatto un negozio, l'avevo fatto, e dunque dovevo fare la copertura del controsoffitto, dovevo fare. E queste cose le compravo lì alla SIR, che costavano la metà di quanto costavano a Sassari, in quel negozio che c'è all'angolo di via Giorgio Astruni, via Cavour, in quella zona lì c'è uno che vendeva, non so se c'è ancora, vendeva questi pannelli così, e li vendeva il doppio di quanto mi pagavo io a Porto Torres, proprio all'interno della SIR, andavo direttamente dove li costruivano questi pannelli. E sono passato a 56 allora, e mi è arrivata la fotografia a casa, mi è arrivata da Porto Torres. Beh, lo sai, io non l'ho mai pagata, io sto parlando di oltre 20 anni fa, Gianni, non l'ho mai pagato quella contravvenzione, non mi hanno mai cercato. Ma quando c'erano con le macchine in borghese? Sì, mi sembra che erano proprio in borghese il giorno, sì, erano all'angolo, all'incrocio, con la strada che si gira per andare a Porto Torres, dove ci sono le bancarelle, come si chiama quella via lì, via delle Vigne, cioè anziché passare per Porto Torres si giravi lì e scendevi da su poi via delle Vigne, erano lì, all'angolo lì erano. Perché poi hanno appurato che quelle macchine lì erano dei privati, li pagava il comune per fare queste multe così, ed erano fuori legge queste multe, le hanno tutte eliminate, capito? No, ma c'è, diciamo che puoi andare fino a 20 km orari in più, sono tollerati. 20? No, Gianni, cosa stai dicendo? 5 km è il massimo tollerabile. E infatti da 50 potevo essere a 55, però io da 56, e dunque mi hanno mandato la cartolina a casa, mi hanno mandato la multa. E io la taglia la bau, non l'ho mai pagata, mai, non mi hanno mai cercato. Ma era 52, non era 55, era 52. Avanti, Luca. Aspetta, stavo ascoltando un messaggio di Marco Provenzano, quel ragazzo là, Giulio, mi ha mandato un messaggio, ti sento in sottofondo da qui, da Livorno. Ha detto, va bene. Sì, vabbè, oggi c'è preparazione. Cos'è? Vigile cos'era? Non mi ha detto, o custode, cos'era? Boh, non mi ricordo. Una guardia carceraria. Una guardia carceraria. Allora se l'ha pensata già l'antenna se l'ha già messa, attaccata alla pipa. No, dice che c'è un sacco di propagazione. No, stavo andando da comprarsi la canna fresca, perché quella che aveva messo l'altra volta gliel'aveva rotta, e da Decathlon a comprarsi di nuovo la canna fresca per montarla lì in caserma. Si vede che l'ha piazzato, perché mi ha detto c'è un sacco di propagazione. E cosa l'hai venduto? Che antenna l'hai venduto? 10 anni fa io avevo fatto un'antenna a questo. E quando ieri mi ha mandato un messaggio che si stava trasferendo, lo stavano trasferendo a Livorno. Che stava usando, che voleva mettere l'antenna mia, se la poteva mettere sulla pipa di una parabola. E gli ho detto va bene, basta che non hai muri vicino, ostacoli insomma, e mi ha mandato le foto, è all'ultimo piano, c'è una ringhiera, un parapetto, gli ho detto sì, lì la puoi mettere tranquillamente. E però stava andando appunto da cosa a comprarsi la canna da pesca, perché l'altra ci aveva gli ha spezzata il vento, quella che aveva usato. Sì, perché tu la canna da pesca non la dai dall'interno e basta così? Non sempre ce l'ho con la canna da pesca lì, infatti l'avevo fatta poi l'antenna e ce l'ho sempre messa da parte, ma sto parlando già di 6-7 anni fa, all'incirca più o meno, l'avevo pagata 16 euro, l'avevo pagata, era una canna da pesca lunga 7 metri, senza tutti quei collari di ferraglia che c'era, anche perché tanto quelli li avrei dovuti togliere, capito? Il commesso mi aveva detto, no, questa qui è una canna per i fiumi, boh, io non è una canna fissa. E lui mi aveva detto, no, questa qui è per i fiumi, non è per... Fatto sì, ma a me mi occorre questa, proprio senza tutti questi collari così in metallo, eccetera, eccetera. Canna fissa si chiama giù, quella la canna fissa, la usano nei fiumi con un pezzettino di lenza e pescano così. Quando il pesce attacca il tirano senza mulinello, senza nulla. Sì, senza niente, allora, è bello, io l'ho usata per fare l'antenna. E ce l'ho sempre. Prima ne avevo una, ma quella lì poi l'avevo cambiata con questo ragazzo di cosa si chiama, vicino a Cagliari, ma non me ricordo più. Mio nipote che c'è, di Carbonia, e poi mi ha restituito questa che ho adesso, perché questa io l'avevo comprata da Sandro del Porto Torres, l'avevo comprata, no? E poi siccome io ce l'avevo autocostruita, l'avevo data a questo ragazzo, questo nipote praticamente, un ragazzo di 20 anni, già di circa. Invece poi non l'avevo mai piazzata, lui allora gliel'ho richiesta e me l'ha restituita. E io gli ho dato quella autocostruita, gli ho dato quella che avevo montato. Questa me la sono messa a posto come si deve, me la sono e ce l'ho sempre piazzata, ormai già da anni. Quanti anni ce l'avrò questa piazzata qua? Io penso 4 anni, di preciso non lo so, ma le circa così. Allora tu ce l'ha fatta per prendere acqua con le cale lì, quindi non si dominano più che altro con lo sole, si vetrificano, quello sì. Questo originale però è prima del vetro come si deve, no? Questa, anzi io pensavo che si consumasse eccetera, invece quando l'avevo tolta perché c'era il bocchettone che non faceva contatto, dunque mi erano salite le stazionarie, cos'era? Che dove abitavo il PL era tutto ossidato, dunque non faceva ben contatto, e mi era salito le stazionarie a 2, 5, 3, una cosa del genere. Allora l'ho tirata giù, vediamo cosa è successo, e cosa è successo? Che era solo sporco, perché poi l'ho tutta smontata per vedere dentro com'era, era tutta posta in ordine, tranquillo e pacifico. L'unico problema era che il boccatone aveva preso acqua, l'ho preso, si era tutto ossidato, era proprio verde, verde, verde, e dunque lo faceva ben contatto il PL. Allora adesso invece l'ho pulito tutto quanto, adesso già da tempo, no? Adesso già da tempo fa, e ci ho messo un pezzo di tubo da elettricista di quelli rigidi, sino attaccato alla lamiera che c'è sotto, no? alla piastra che c'è sotto, nella base, è lì, e l'ho fissato con il nastro isolante, eccetera. Adesso l'acqua non ne può entrare più nella maniera più assoluta, e dunque non va benissimo così com'è. Vabbè, no, già va bene, io sono contento, la verità, io tanto ne sono contento, anzi devo dire che non la cambierò mai più. cioè se cioè dovesse rompersi e magari non ce l'ho la manta batturbo, ma non la utilizzerò mai, non la metterò mai, casomai me ne comprerò un'altra uguale a questa, perché è plastica, senza radiale, senza niente, leggera e mi va bene. C'era un terrazzo in una posizione abbastanza bassa, mi metto la sedia, allungo il braccio e svito il piede, si può immaginare. Meglio, ma è più comoda di così, per me non può andare, non, mi va benissimo com'è. Vai Luca. Trattieni infatti di scorta, mi senti? Ho acquistato un'antenna da te. Mi hai fatto questa antenna che andava meglio di una Game Master. Dopo 10 anni. Un telescopico nero con la sì, non c'è da meravigliarsi, perché no? Non c'è da meravigliarsi. Vanno bene, c'è costruita come si deve, perché io la cosa che avevo fatto andava benissimo, qui per tante dia che le ho giovato io, e non solo io, poi ce l'ha fatta anche Franco, ce l'ha fatta, eppure la sta autorizzando ancora oggi, Franco anche lui ha fatto di tante dia che c'è lo stesso, nonostante che ce l'ha piazzata attaccata alla staffa del filo da stendere a casa sua nella finestra. Ma non è la tua già. Niente, senza analizzare. No, come ha detto la chiesa a California, sta dicendo Franco della stazione. Le misure, poi, cosa vuoi dire? Franco della stazione. Sono sempre andato bene. Avanti già. Luca, è Franco. Franco della stazione. Come si chiama? Franco. Quello che trasmette via di Sicilia, dai. Non è Franco California. No, Franco Binario, dai, Franco Binario. Anzi, veramente io nel telefonino mi ho scritto Franco Ombra, perché la moglie quando modulava si chiamava Ombra, siccome non mi ricordavo il suo nome, allora ho scritto Franco Ombra, così me lo ricordo sempre. Sì, sì, se l'ha fatto anche lui. Però se gli dava una posizione migliore magari avrebbe... Vabbè, a me mi arriva con lo scala, a me mi arriva fortissimo perché si vedono le antenne, ma in certi posti arriva più basso, capito? Se lui avesse messo l'antenna sul tetto, guai. Sì, beh certo, ma un giorno parlando io stesso gli ho passato le misure, ho fatto guarda, le misure sono queste così così. Gli ho mandato anche lo schemino, tutto quanto, lui nei 2 giorni si è costruito l'antenna. E da allora non l'ha più tolta e va bene. Se l'aveva costruita anche Coro, come si chiama quella, adesso non mi ricordo il nome, sto invecchiando, dunque certi numeri mi sfuggono. Quello che lavora a Marcello, quel ragazzo che abita lì a Sant'Orsola, come si chiama? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo, dai, devo guardare il telefonino per vedere il nome. Vediamo dopo te lo dico, adesso do un'occhiata anche al telefonino. Riprendi Luca? Sì. Però le antenne vogliono piazzate come si deve, invece molti, per forza di cosa, per un motivo o per un altro, comprano antenne costose, perché la Game Master era un'antenna comunque abbastanza costosa, e da voi la piazzano a 1,5 metri, 2 metri. Cioè così è come mettersi una boomerang alla fine, capito? Sì, ma in effetti è così, l'antenna vorrebbe almeno 5 metri sopra il tetto, dal tetto, come regola, ma io nella posizione dove l'ho messa non posso mettere 5 metri sopra il tetto, dal tetto è bassissima, da sopra il tetto è bassa, sarà quanto sarà, non è nemmeno 2 metri, non c'è nemmeno 2 metri dal tetto, e anzi di meno, forse 1,50 anche. Cui va bene lo stesso, però nonostante tutto io mi sento, pensa che mi sento la Belchida anche, mi sento la Belchida, Giovanni quando va a Belchida mi sente lì, e Carlo quando va a Bonorba mi sente lo stesso, così come adesso, bassa così, è con bassa potenza e tutto quanto, non c'è problema. Tu non lo stai più facendo lui di quasi nulla già. Perché sai, quelle antenne lì sono come una moda, no? Poi passano, ne escono altre e passano di moda. Infatti mi pare la Game Master non la so più manco pendente. Allora, la Game Master come antenna, come diciamo, interno dell'antenna, come filamenti, tutto quanto è buono. La cosa brutta è che hanno messo materiale che non serve esternamente, perché si vetrifica. A me me l'avevano detto prima di comprare, sono stato io che l'ho voluto provare lo stesso, però me l'avevano già avvisato, guarda Gianni che si vetrifica e si spacca, e così è stato. Si è vetrificata e si è spaccato la... Vabbè, è stata anche piazzata male, quello sì, perché non è stata piazzata con le misure giuste, perché io era il periodo che praticamente dovevo essere operato e non ce la facevo, guarda lui, non ce la facevo manco a muovere, mi sono dovuto sedere sul tetto, mentre loro la stavano facendo mi sono seduto. Gli ho detto, ma le misure, guarda, sì, non ti preoccupare, sì, sì, infatti. Da voi si vince il risultato. E poi c'è anche il coraggio di di mettere il video su Facebook. Che coraggio che hanno avuto proprio. Allora quello di Sant'Orso si chiama Danilo che lavora da Marcello, lavora lì, non mi ha portato, se no qualche volta anche mi ha portato, ma l'altro Marcello, quello che c'è di Arredosso della 291, in quella strada lì. Danilo si chiama Oggia. Chiamo, non ricordo, ma è da un bene che non muto, anche c'è una campagna lì vicino a San Camillo. In quella zona lì. Sì, infatti ho guardato il telefonino e per vedere il nome, perché non mi ricordavo il nome, ma perché me l'ho registrato come Danilo CB Sant'Orso, no? Così almeno se mi metto col nome so la zona, la posizione, e so di che sto parlando o meno. Anche lui ce l'aveva autocostruita e usciva benissimo, non c'era problema. Avanti, Luca. Vanno benissimo. Certo, se uno vuole ascoltare anche in HF e non ha posto di mettere altre antenne, ne mette una in alluminio e c'è la stessa, capito? Con la Game Master quello non lo puoi fare, assolutamente. No, infatti no, quello no, a livello di HF è sorda l'antenna. Dunque, se puoi anche di 11 metri HF, comunque, stavo dicendo, mentre invece con la Mandelba Turbo qui a Puglia si andava, certo, io mi ricordo quando avevo il 440, accordavo con la Mandelba Turbo, parlavo con tutta l'Italia, il 45, dall'Alta Italia alla Bassa Italia, tutti saltavo 9, 10 anche, tranquillamente, senza nessun problema, parlavo proprio con i radioamatori, perché loro dopo la chiacchierata mattutina alle 8 se ne passavano tutti quanti sul 45 per fare le chiacchierate così libere, diciamo, no? E allora quando io ero a casa li sentivo e entravo anch'io e mi davano segnali, segnaloni così in diretta, sempre con la Mantova Turbo, però accordato naturalmente con il coso elettrocontenuto della radio. Vai già. Sì, ma anche questa che c'ho io. Vabbè, ho avuto un problema, te lo stavo dicendo l'altro giorno, poi mi sono, non so cosa sia successo e non abbiamo continuato il discorso. Da poco ho avuto un problema, praticamente c'è un cavo che entra nella molla della carica e alla fine della molla c'è il buco, si infila questo cavo che rimane rigido alla fine e poi si mette una morsa che lo tiene stretto. Questa morsa deve essere, se hanno fatto tutto in acciaio e hanno messo questa morsa, praticamente questa fascetta l'hanno messa in ferro.